Lei giusto che sta lavora all'acquedotto, quindi volevo chiedergli che ci facesse un quadro della situazione in Lombardia per quanto riguarda le privatizzazioni dell'acqua e quella che è la loro lotta adesso, in particolare i comitati per il referendum. Beh, a Milano abbiamo, per fortuna, l'anno scorso il Consiglio Comunale ha votato una mozione contro la privatizzazione dell'acqua come Comune di Milano. Un po' diverso all'esterno, che è il Consorzio Acqua Potabile, che è un insieme di comuni che sembra che sono destinati a creare un qualcosa sul privato, ancora non si conosce bene. Probabilmente stanno aspettando il referendum del 12 di giugno. E tutto sommato noi a Milano, come Comune di Milano, abbiamo un servizio gestito in house dalla metropolitana milanese e diciamo che dalla metropolitana? Milanese, sì, è una società di diritto privato, ma è tutto del Comune di Milano. Ah, scusa, ma nel senso dei trasporti? No, perché è gestito il servizio idrico, è gestito il servizio idrico, intendiamo, metropolitana si intende, è una società che gestisce il servizio idrico integrato e comunque abbiamo acqua di ottima qualità e per fortuna è gestita in house, tutto sommato possiamo dire che va bene, non c'è nessun bisogno che venga privatizzata. Io so che Milano galleggia sull'acqua, no? Certo, infatti noi abbiamo un bacino di utenza di circa 2 milioni e mezzo di utenti e per fortuna diciamo che va bene come acqua, siamo ai massimi livelli e infatti anche nel costo. Essendo privatizzato, cioè dato in house da poco, gestiamo un buon servizio ancora. Quindi è una contraddizione abbastanza curiosa, esatto, no? C'è sì. Un governo di destra che vuole la privatizzazione, invece il comune ha votato invece la posizione contraria. Esatto, infatti anche... il sindaco Moratti l'anno scorso ci ha promesso che il comune di Milano l'acquedotto non lo privatizzerà. Ora questo non avviene per caso, voglio dire, c'è stata una spinta dal basso molto forte. Certo, una spinta molto forte dal basso, sia anche che la gestione che comunque è stata una gestione abbastanza oculata e quindi... è andata in quel senso, ecco, e quindi abbiamo premuto in questo. Senti, la domanda che faccio un po' a tutti, questo benedetto problema del quorum, no, di raggiungere il 50% dei votanti, questa situazione di Milano, secondo te, può funzionare come disinteresse per il voto perché tanto la situazione va già bene, oppure da quello che percepisci tu, l'interesse grosso, la partecipazione ci sarà? Questo non lo possiamo sapere, cosa hanno in mente, l'impressione sembra di no perché comunque sembra di no, no in che senso? Sembra che si ha interesse a tenerlo comunque in con una società pubblica. No, scusami, non mi sono spiegato. Volevo sapere se secondo te il quorum a Milano per esempio si raggiunge su questi referendum che comprendono anche i nucleari. Sì, secondo me sì. Noi abbiamo fatto una raccolta di firme come CGIL, abbiamo aderito con i comitati dell'acqua e abbiamo visto grande partecipazione della gente che ha partecipato sia a destra che a sinistra, che comunque l'acqua rimanga comunque pubblica nel suo insieme, ecco. Quindi penso che il quorum Milano riusciremo a arrivare. La nostra impressione è questa. Poi, sai, la vita non sappiamo come va. Comunque la lotta e l'iniziativa continuano. Le iniziative continuano. Ecco, anche oggi siamo qua a sostenere questa iniziativa, che comunque è un'iniziativa grande, perché sappiamo come è in Italia la gestione. Noi non vogliamo finire come in altre realtà che si sentono sui giornali e comunque si vivono alcune regioni o province o comuni stanno sopportando. Vediamo l'altro giorno, c'erano degli articoli sui giornali dove l'acqua era aumentata del 77%. Invece mi pare che i costi dell'acqua a Milano siano tra i più bassi in Italia. Sì, no, in Europa, specifichiamo, in Europa. No. Quindi buona e costa poco. Certo, questo dobbiamo dare atto, almeno qualcosa. Comunque è un discorso che arriva dal pubblico, una storia di 1890 che arriva ad oggi e quindi c'è stata sempre... un'attenzione diciamo verso l'acqua a Milano e oggi ci troviamo in questa situazione. Ti ringrazio, prego. Ciao. Gianni. Allora, se abbiamo ancora un po' di tempo, sono qui con una compagna delle donne in nero di Napoli, sì. Che oltre che dell'acqua ci parleranno anche del problema dei rifiuti. Sì. Posso andare? Sì, vai. Ok, allora, ciao. Ciao. Io ti lascio subito la parola per parlarci appunto non solo della lotta per l'acqua pubblica, ma anche di altri problemi, la guerra, i rifiuti. A te. Grazie. Pronto? Sì, posso parlare? Sei in diretta, sì. Ah, salve. Saluti a tutti. Io sono Maria Rosaria. Sono di Napoli, faccio parte della rete internazionale delle donne in nero, che è una rete di donne contro la guerra. Noi siamo impegnate sugli effetti delle guerre, che poi hanno mille facce. Non è solo l'aggressione militare, ma anche l'aggressione ai territori, l'aggressione ai beni comuni. Quindi per questo noi siamo presenti, in particolare sul nostro territorio, con un impegno da sempre sulla difesa dell'acqua come bene comune e come fonte che deve essere divisa tra tutti senza lucro, anche perché l'acqua è un bene che anche esso è oggetto di aggressioni. Pensiamo alle fonti d'acqua in Palestina aggredite da Israele proprio per sottrarre l'acqua ai contadini palestinesi. Per questo anche il muro divide le fonti d'acqua, che vengono date soltanto ai coloni israeliani, mentre i palestinesi vengono divisi dalla terra e dalle fonti d'acqua. In particolare siamo impegnate sulla questione dei rifiuti, perché a Napoli la situazione è sotto gli occhi di tutti, anche se poi si parla di un'emergenza cessata. Noi che viviamo su quei territori diciamo che l'emergenza è soltanto nascosta, ma siamo continuamente alle prese con montagne di rifiuti nelle strade, siamo alle prese con i problemi delle discariche, alle prese con il fatto che non si vuole affrontare questo grande problema come un problema di cambi dell'economia che vadano nei confronti di pratiche diverse di riduzione a monte dei rifiuti, di un altro modo di vivere di non produrne rifiuti e di non andare a cercare discariche che invadono e avvelenano i territori che sono già molto sottoposti. Pensiamo ad Acerra, pensiamo a Terzigno, e da questo punto di vista cerchiamo anche di intrecciare relazioni con i tanti comitati che nascono nei quartieri, che nascono nei territori della provincia di Napoli, che nascono in Campania. E da questo punto di vista vorrei anche spezzare una parola per dire che sono tante le donne che sono in questi movimenti. Oggi possiamo dire che questi movimenti sono molto al femminile, perché la produzione dei rifiuti intesi come resti, in quanto donne, ci vede molto molto impegnate, perché nella nostra pratica quotidiana il rapporto è soprattutto con quello che noi produciamo e quello che possiamo fare come cambio di comportamento quotidiano. Sì, volevo farti due domande. Allora, una partendo dai rifiuti. Allora, in Campania ci sono situazioni piccole, ma non solo piccole, che vanno molto bene con la raccolta differenziata. Una città medio grande come Salerno, mi pare che sono arrivati ormai al 70% di rifiuti con la raccolta differenziata. A Napoli questo non è successo proprio per incapacità della classe politica locale. Ricordiamo che c'è un sindaco di centrosinistra a Napoli, la Iervolino, o perché gli interessi di industriali, camorra, eccetera, sono troppo forti, cioè condizionano troppo appunto le decisioni politiche? Guarda, io penso che entrambe le domande che tu mi hai fatto presuppongono una risposta positiva. È chiaro che il tessuto urbano economico è molto informato dagli interessi delinquenziali, ma è anche vero che la classe politica dirigente da anni ha evitato accuratamente di confrontarsi con questi problemi e ha preferito comunque restare in questa attesa che poi ha creato i disastri che conosciamo, piuttosto che cercare le alleanze con i cittadini e creare un altro punto di vista, un'altra pratica quotidiana rispetto al problema. E, al momento poi le due cose sono diventate talmente intrecciate tra loro che è difficile puntare il dito sul male maggiore o sulla responsabilità maggiore, perché adesso c'è una situazione in cui le cittadine e i cittadini hanno anche delle pratiche di vita diversa, ma che si scontrano con un'organizzazione che li penalizza, che li addirittura poi li criminalizza nel momento in cui si evidenziano le buone pratiche dei cittadini. L'altra domanda invece riguarda la NATO. A Napoli c'è un comando appunto importantissimo per il sud dell'Europa e io vorrei chiedere, in altre situazioni italiane, tipo per esempio in Veneto, c'è una grossa lotta da anni dei No Dal Molin contro l'estensione della base militare statunitense. A Napoli, anche e soprattutto nella situazione attuale in cui siamo in guerra, anche l'Italia partecipa alla guerra in Libia, diciamo è tutto tranquillo da questo punto di vista, non c'è una qualche opposizione contro queste enormi installazioni militari, oppure è in programma qualche cosa anche per evidenziare il rifiuto della guerra nel nostro paese? Certo, l'opposizione c'è, è un'opposizione fatta di movimenti di base, di comitati, di gruppi di studenti, di università, da questo punto di vista è mobilitata contro gli attacchi militari in Libia, e proprio noi l'altro giorno insieme a tutta una serie di gruppi di base nel pomeriggio di giovedì abbiamo fatto un presidio fuori l'aeroporto militare di Capodichino. Chiaramente i numeri non sono numeri grandi, sono numeri piccoli ma significativi. Purtroppo da questo punto di vista i media non danno assolutamente spazio a un'opposizione che pure c'è, che pure cerca di rendersi visibile. Domani per esempio c'è un altro volantinaggio nell'area dell'aeroporto militare a cura del Comitato Pace e Disarmo, che è uno dei tanti organismi di base al quale aderiamo anche noi come Donne in Nero e con il quale abbiamo fatto una serie anche di denunce sul porto nuclearizzato di Napoli, perché non ci scordiamo che una delle più grandi portaeree americane attestata nucleare staziona normalmente nel porto di Napoli e noi non abbiamo un piano di evacuazione come comune di Napoli, quindi i cittadini sono tenuti all'oscuro dei rischi che possono continuamente correre e non esiste né un piano di sicurezza né un piano di evacuazione. Queste cose continuiamo a denunciarle, ma con una complicità dei media che cerca di nascondere queste denunce. Quindi io mi sento di affermare che un movimento c'è e deve crescere. Ovviamente non è facile un movimento del genere, perché presuppone una serie di strumenti di conoscenza, una serie anche di coscientizzazioni su questi problemi, e sappiamo che la coscienza in quest'epoca è abbastanza addormentata, però noi continuiamo con la nostra presenza, con i nostri corpi, con le nostre parole a raccontare quelli che sono i rischi anche di una città come Napoli. Ultimissima, molto breve, a Napoli secondo te il quorum si raggiunge nel referendum per l'acqua e contro il nucleare? Speriamo molto molto di sì, lavoriamo per questo, grazie a tutti, arrivederci. Grazie. Allora torniamo Radio Onda Rossa di Roma. Sì, eccoci. Allora intanto no, volevo che... mi senti? Non so se avete già sentito qualcuno dei comitati antinucleari. Penso di sì, nel corso del pomeriggio. Pronto? Noi ci siamo dati... Pronto? Mi senti? Pronto? Mi senti? Senti? Sì, io ti sento. Allora, sento, no, viene la voce, volevo, no? Dicevo, che... avete già sentito qualcuno dei comitati antinucleari? Guarda, penso di no, non ancora, ancora non ci siamo, penso che ancora non ci siamo riusciti. Finora abbiamo sentito. Aspetta, mi devo allontanare, o fate la voce più alta, altrimenti non riesco. Pronto? Provo ad andare dietro. Vuoi ripetere? Sì, no, penso che ancora non li abbiamo sentiti. No, volevo chiederti intanto, visto che dalle corrispondenze abbiamo anche un po' capito quanto sia vasta, no, la partecipazione alla piazza di oggi. Sentivamo appunto della CGIL, le donne in nero. Sì, sì, anche... no, vastissima. Io volevo solo sapere se aveva parlato qualcuno ai comitati antinucleari. No, ancora no, ancora no. Quindi se riesci a fermare ancora qualcuno, ti richiamiamo, insomma, fra un quarto d'ora, 20 minuti. Mi sento male perché non riesco a trovare un punto in silenzio. Ti richiamiamo, ti richiamiamo noi. Stanno dal palco, sì. Ci stanno i camion che stanno ancora arrivando del corteo, che è ancora molto lungo, quindi sì, sicuramente saranno più di 200.000 persone, però boh, chissà quante. Okay. Non so, come pensavate di chiudere? Cioè, avete già qualche collegamento con quelli del Comitato Nazionale per l'Acqua Pubblica? Allora, noi... No, mi viene da ridere perché... Pronto? Mi senti? Pronto? Niente, non riusciamo a comunicare con Giangi, però...